24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Io sono andata da lui. Ho le lacrime negli occhi. E le ho chiesto di, visto che le affermazioni della stampa erano la nuova escort di Berlusconi ci costa 400.000 euro, di fare insomma delle smentite. Lui ha preso il foglio che ero, insomma, la nuova escort con la mia foto, ha fatto: oh, questa sei tu, che belle tette che hai. Parola di Michel Bonev. Lui, lo avete capito chi è lui, dove è andato Silvio Berlusconi, ma io... Oh, sono le 6:34 minuti, intanto buongiorno, chiude la settimana di 24 mattino, buongiorno a Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, ma... Oh, lo dico subito, io non ho visto Santoro ieri, anche perché c'era X Factor, cioè non facciamo paragoni irriverenti, veramente. Ma ho letto oggi i giornali, ma che diavolo è successo? Ma cos'è la Bonev che dice Berlusconi mi diceva che belle tette che hai? La Bonev che dice che sono andato a letto con lui perché mi ha promesso un contratto? E che la Pascale è lesbica? Che Berlusconi e la Pascale litigano? Una volta Berlusconi l'ha graffiata in faccia Ma io... Ma apriamo il Parlamento, va, ma... Dai, su. Apriamo il Parlamento, ma... Il caffè volentieri a tutti i... Ma si diceva prima... Io non lo voglio il caffè che l'ha messo. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Ecco, appunto. Ma sono passati anni, basta! Io voglio salutare subito Luisella Costamagna, Luisella, buongiorno. Ma basta sapere... che Berlusconi andava a letto con chi, che poi bisogna... Ma basta! Mi stai facendo la reazione anch'io, confesso che ho guardato X Factor, ho canalato su servizio pubblico, mentre Cacciari diceva a Santoro esattamente questo. Ah, glielo vedi, non l'ho detto, gli avrà detto, basta, andiamo avanti! Basta le mutande! Basta! Vincino, ciao Vincino, saluto Vincino. Vincino, che dici? Basta! È una giornata bellissima questa qua, tu me la stavi rovinando. Ieri sera hanno assolto Scaglia, finalmente, guarda, uno dei imprenditori italiani arrestato 3 anni fa in una maniera così... Vabbè, Vincino va sempre avanti, aspetta Vincenzo, ci arriviamo e subito te la rovino con Michel Bonev. Come dire, no, che senso? Di che parliamo? Appunto, questo qua, no, perché oggi sui giornali, figurati, il sobrio titolo di Libero, cara Luisella, è tette, culi e lesbiche, Santoro il solito guardone. Vabbè, insomma, questo è... Diciamo che tutto il lato davvero sessuale, il presunto lesbismo della Pascale, chi se ne frega. Ma l'interesse, secondo me, che c'è nella vicenda della Bonev e le pressioni fatte da Berlusconi per poi far acquistare alla RAI i diritti del suo film, il premio a Venezia, in questo caso il fatto di avere prova del controllo della RAI da parte di Berlusconi, dello spreco di denaro pubblico per Amici, su cui mi ci piacerebbe vedere adesso un intervento del moralizzatore della RAI Brunetta, questo... Ma non ti dà l'idea di un dibattito che da 20 anni che si fa, da 20 anni. Però analizziamo il merito, cioè il fatto che il film della Bonev sia stato comprato dalla RAI, al di là del merito, per questioni insomma che non riguardano il talento, è invece un elemento importante. Dopodiché diciamo anche che a me fa sempre un po' impressione questi che sono stati fino a ieri a Libro Paga e poi si raccontano tutto perché caduti in disgrazia raccontano tutto parlare, certo. Vincino, insomma, hai capito, bisogna indagare qui sul film della Bonev, capire ma, se Ma poi Berlusconi a Venezia mica c'è lui, no? C'ha una quantità immane, aveva di cortigiani i quali andavano a cercare a fare piacere in tutta Italia. Ma, vabbè. Sentite, facciamo così, chiudiamo questa vicenda. Perché chiudiamola, io non so. Questa vicenda, allora, e no, parliamo delle cose buone. Dopo Scaglia, un attimo, allora, perché Vincino, dovete sapere, ha seguito tutto il processo Scaglia, andava, si presentava in aula. Tra poco. Allora, però, la legge di stabilità. Ma allora, a me questa cosa mi fa veramente ammattire, ma non so se avete capito che ha messo questa clausola di salvaguardia nella legge di stabilità, e cioè funziona così: se lo Stato non riesce con la spending review, cioè un nuovo commissario, Cottarelli, se lo Stato non riesce a risparmiare, scattano la riduzione delle detrazioni fiscali. Cioè è come dire, caro Vincino, se io mi impegno da oggi a risparmiare 200 euro in famiglia, ma se non ce la faccio ti do una botta in testa e ti rubo la pensione, perché insomma no, in qualche modo devo rientrare. Cioè invece di 14 euro di risparmio al mese che ci danno, ce ne daranno 8, 7, 6. Ma soprattutto c'è questa cosa, cioè se lo Stato non riesce a fare i compiti e risparmiare, aumenteranno le tasse. Cioè ha messo questa clausola di salvaguardia. Fassina si è arrabbiato, giustamente. Fassina, sì. Ma Luisella, ti pare possibile questa cosa? Cioè, no. Il principio, Ilan. Dico. Ilan. Ehi. Che c'è? No, su questo volevo aggiungere un elemento, perché ho messo insieme quello che dici tu, cioè il fatto che se non calerà la spesa si taglieranno le detrazioni fiscali. Stiamo parlando di detrazioni fiscali su spese sanitarie, spese scolastiche, universitarie, certo, interessi sul mutuo. Ma io la unisco, ed è per dare il senso della situazione drammatica in cui siamo, col fatto che la Camera contemporaneamente ha approvato la legge sulla presunta, aggiungo, abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, e mentre da un lato taglia le detrazioni sulle spese sanitarie, dall'altro ha aumentato le detrazioni fino al 75% per chi finanzia le scuole di formazione politica. Cioè, da un lato ce ne sarebbe bisogno, ce ne sarebbe bisogno di dall'altro scuole. Però chi finanzia la politica avrà maggiori detrazioni. Ti rendi conto della vergogna? Abbastanza. Di questo uno due. Vincina, hai sentito? Mi è diventata un po' grillina. No, ma questa qua, no, cioè, l'abolizione o era o non era, insomma, o era totale, cioè, no, ci aveva promesso l'abolizione totale, via. No, sì. No, però questo principio. I cortigiani di Renzi, che vedi sempre il guaio di questi cortigiani in giro, invece no, 4 anni. Invece con tutte, è come dire, no, e via, basta. Basta, il finanziamento. Ma però tu che pensi, Vincino, di questo principio, questo paracadute lo chiamano, clausola di salvaguardia, cioè che vuol dire veramente o lo Stato fa i propri compiti o se no chiede i soldi ai cittadini, ma che patto è? È un'insopportabile cosa italiana di sempre, no? Quando che non riescono mai a fare le cose, non riescono mai, e allora si inventano, fanno mezze cosette però con la riserva, con la cosa. Sì, ma piuttosto io dico, fallo in maniera spudorata. Dice non ci sono i soldi, vi aumento le tasse, ma non dire e nel prossimo anno dobbiamo tagliare, se non ce la faremo ci dispiace, dovremo. Non siamo spudorati al governo per ora, Letta e Alfano non sono spudorati in questo senso, nel senso del coraggio e la cosa, sono spudorati in altri sensi. Spudorati in altri sensi, in che senso? In che senso? No? In quali sensi, Vincino? Nei sensi del, come dire, dai, nei sensi delle dire stupidaggini vergognose, €14 al mese, ma manco c'è, manco una pizza per lui e la moglie riescono a farci l'operaio, qualcosa, no? Che poi la domanda a Luisella, giustamente da 2 giorni l'alpino Peter Bescapè mi fa questa domanda, ma soprattutto €14 al mese sono lordi o netti? E io non lo so, cioè, perché fa una differenza tra avere 14 euro al mese in più e 12, 11. No, è veramente uno scandalo, cioè voglio dire, una maggioranza ampissima che è nata solo per fare delle cose per il bene del paese in una situazione di emergenza, non ha fatto sostanzialmente nulla, nonostante questa maggioranza sia stata pure rafforzata, come si dice, per il voto di fiducia di ottobre, cioè vincono le larghine intese e perde il paese, cioè è scandaloso. In tutto questo non so se avete visto Obama e Letta, sai cosa ha detto Vincino? Della tua, lei, Obama, perché noi siamo famosi per queste cose al mondo, Obama ha detto certo che verrò in Italia, in Toscana si mangia benissimo, mi ricordo con Michelle, insomma, che è vero, perché tu in Toscana confermi si mangia benissimo. E lo sappiamo tutti, ma voglio dire, L'immagine è questa, capisci? Quella là di Leone col mandolino e spaghetti. Là. Sì, no, nel senso si mangia, però certamente in Toscana si mangia benissimo, me lo ricordo. Comunque dura ancora 3 giorni questo governo. Ma che, ma figurati! All'antimafia non riescono a fare quel ma povero figurati. Vecchio che è l'unico serio di antimafia, lo mettono via, no, è tutto un disastro. Ma figurati se dura 3 giorni. Che ti è arrabbiato, no? No. Che vince le cose, ma ti immagini il giorno dopo che Renzi ha vinto si continua questo governo così scemo? A proposito di Renzi, oggi fa un'intervista al Corriere. Renzi ha detto: io avrei fatto una detrazione del cuneo fiscale di 22 miliardi di euro. Al che giustamente Aldo Cazzullo gli dice: e dove li avresti presi i soldi? Avrei tolto le pensioni d'oro, contributi alle pensioni d'oro. Luisella, tu credi in Renzi oppure un battutista, come dice Vendola, come ma dice Berlusconi? Gustosa letterina l'altra settimana sul Fatto Quotidiano, sì, alla quale ovviamente non ha risposto. Penso che temo più che altro, al di là del merito di Renzi, che insomma sulla valutazione non mi esprimo, ma che non so se ce la faccia, francamente, perché quanto si sta muovendo il partito per stopparlo, i moniti che gli arrivano da Prodi a Cofferati, che doveva essere il leader, cioè diciamo che nel Partito Democratico sono bravissimi a fare poi il trappolone, sì, e a spedirlo in Europa. Dopodiché in questo momento io credo che lui stia dicendo effettivamente delle cose, stia pungolando il governo dicendo delle cose giuste, cioè i soldi per tagliare di più il cuneo fiscale di 22 miliardi, non 22 ma 15, l'aveva chiesti anche squinzi di Confindustria, si possono e come trovare, voglio dire. Siamo d'accordo, stupendo. Basta volerlo, però così vorrebbe far subentrare il sospetto che non lo vogliono fare, mi sembra un po', no, come dire, evidentemente. Un'altra cosa che a me mi ha colpito molto, sì, cioè che vanno a pagare sempre i soldi invece di tagliare sprechi, appunto finanziamento pubblico, si va a tagliare su pubblico impiego e tra questi tagliano gli straordinari, sì, di vigili del fuoco e della polizia. Che gli straordinari, i vigili del fuoco e della polizia sono diciamo un elemento anche fondamentale del loro anche poi questa, per la sicurezza pubblica. Allora facciamo così, andiamo a sentire informazioni sul traffico, poi parliamo di Scaglia, per carità, parliamo di Scaglia, assolto ex amministratore delegato di Fastweb dopo 3 anni, tra cui un anno di carcere e arresti domiciliari. 24 mattino. Ho capito, arrabbiato, caro Milan, e qua non ho capito, 200 euro per salvarci dal lavoro e le tasse sul lavoro, chieteli, ci hai messo 7, 8, 9 tasse, che ci hai fatto là, tari, tira, tari, tasi, ma che sta a fare, ma che cosa state facendo, guarda che qui andiamo a finire male, eh? Aiutiamo le aziende, una non mi ha pagato fattura, io ho pagato materia prima, mano d'opera, luce, acqua, gas, ho pagato l'avvocato, ho pagato l'IVA e oggi mi arriva la postina con una bella busta di Equitalia e mi fa: oh Rudy, che te vogliono arrestare? E sai che cos'era? Un'imposta sul decreto ingiuntivo che io ho fatto a questa azienda, 360 euro da dare allo Stato. Viva il governo! Enrico Letta, sono un artigiano. Ci dobbiamo indebitare per pagare l'IMU per i capannoni. E poi dobbiamo anche vedere, tu e i tuoi adepti, votare no per far pagare l'IMU alle piattaforme petrolifere. 2,5 miliardi di tasse delle slot machine, gli avete condonato 2 miliardi, gli chiedete solo 500 milioni per invogliarli a pagare. Fai una bella cosa, prendi in mano il telefonino, chiami il Befera e gli dici: Befera, facciamo una cosa, invoglia anche tutti gli italiani. Ehi Milan, tra qualche tempo sarai mio, tu e tutta Radio 24. Ho trovato il sistema di spendere i 14 euro in più che ci darà il governo. Appena ne raccolgo 2-3 mesi vengo lì e mi compro Radio 24. Tanto la benzina scende, tanto tutto il resto va benissimo. Ok Milan, stai in campana. Ma questo Vincino, questo è siciliano come te, lo riconosco, è straordinario. Hai capito a cosa servono i 14 euro? Straordinario, guarda. Questo li mette tutti insieme e poi viene qua e ci compra, tanto la benzina cala, va tutto bene. Questo... Quell'accento un po' indonesiano che aveva anche lui, No, ma che indonesiano. Allora, Vincino, cosa devi vedere? Luisella, scusalo, ma lui segue tutto, ha seguito tutto il processo Scaglia. E allora, adesso che è stato assolto, ci deve dire che cosa? Dai. Bellissima, ma stupenda, perché poi sono stati assolti tutti i telefonici praticamente. Però ne hanno, condannati. Della Telecom, sì. tre di Fastweb, sono stati tutti assolti. Ovviamente non c'entrava niente. No? E quindi ora andiamo a ricomprarci la Telecom dagli spagnoli. No, abbiamo riformato un gruppetto di mischia grosso, no? Di innovazione. Quello a me con la fibra, tutte pure a Palermo arriva la fibra ora, pure a Mondello. A Mondello. Questa l'aveva inventata lui. Vodafone la fibra non ce l'ha, se la fa prestare. E invece dice i magistrati l'hanno. Vabbè, ma i processi sono fatti anche così. No, ma perché c'era un presidente che assomiglia a De Niro, delizioso, guarda, uno equilibrato, carino. Il presidente di chi? Il presidente del tribunale di Roma nella. Assomiglia a De Niro, a Robert. Preciso, guarda, a De Niro, proprio bello, equilibrato, carino, sui 60 anni, l'ho disegnato e poi te lo faccio vedere. Tu andavi a vedere per quello, per vedere Robert De Niro. Assolutamente sì. E io speravo che questo fosse equilibrato come lo è stato. Vabbè. E allora arriva un messaggio: Luisella, ti amo. Firmato Rino. Vabbè. Che devo, se vuoi poi. No, arriva un messaggio in trasmissione: Luisella, ti amo. Firmato Rino. Oh. Se vuoi poi dopo ti passo il cellulare. Non lo so. Ho capito Torino. No, firmato Rino. Firmato. A proposito di Torino, no, devo dire. Questa notizia diciamo anche che Mogbel è stato condannato a 15 anni, quindi questa tanto campata per aria non era. Diciamo, la parte Mogbel, certo, era la parte telefonica, era campata nell'aria totale. I processi sono così, non è che devono finire, cioè a volte si assolve, a volte poi Mogbel ha fatto un errore. Quello di comprarsi un senatore finiano, il giro limoniano, questo è il suo errore. Ma che se ne fa uno di un senatore? No, ma non lo so, non apriamo questo capitolo. E lui non ha saputo rispondermi. Ma smettila. Io l'ho chiesto, ma che se ne facevi di un senatore? Ti facevi andare a comprare le sigarette? Che ne so, uno che... Un senatore solo poi come No, io vi devo lasciare con questa. C'è un'intervista incredibile, lo dico, di 3 pagine sul Fatto Quotidiano a Lapo Elkan. E in questa intervista Lapo Elkan racconta tutta la sua vita. La fa Beatrice Borromeo e Malcolm Pagani. E dice anche questa cosa: sono stato abusato sessualmente quando avevo 13 anni. Racconta questa cosa, dice non ho mai raccontato questa cosa, la racconto per la prima volta, ora farò una fondazione, tra l'altro nel collegio dove ero anche dei miei amici sono stati abusati, il mio più caro amico si è suicidato un anno fa, non è mai uscito da questa vicenda. Oh, Luisella. No. La nostra fortuna è quella di non essere nati in famiglia Agnelli, guarda, t'assicuro, io, tu, Mila, Luisella, guarda... No, comunque la affidiamo, questa, cioè ci sarà sicuramente, vabbè, scalpore, nel senso che come succedono queste cose. Luisella, ti affido questa intervista. È sconvolgente, la leggerò con attenzione. Sono 3 pagine, no? Non voglio spostare l'argomento, però mi sembra che una notizia di oggi buona da valutarsi, sono anche le dimissioni di Monti, cioè davvero questa salita in politica è stata una progressiva discesa. Per Monti mi veniva in mente anche una suggestione, che il fatto che Letta è riuscito nell'incredibile impresa di far fuori tutti i leader di partito, prima Bersani del suo partito, Berlusconi, adesso Monti. Il governo di numero 2. È la democrazia cristiana, che devi fare? Vi ringrazio, mi devo fermare, Luisella Costavagna e caro Vincino, alla prossima, giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, le 7:20 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali e vi ricordo che oggi avremo ospite Roberto Maroni alle 8:15, il presidente della regione Lombardia, nonché segretario della Lega Nord. E poi parleremo dalle 8:30, anche legandoci a una iniziativa della regione Lombardia di contrasto alla cosiddetta ludopatia, cioè al gioco d'azzardo, perché proprio la regione Lombardia ha detto ai baristi che tolgono le macchinette, le slot machine, daremo sgravi dell'IRAP. È uno dei temi, non l'unico certamente, che toccheremo anche con Maroni. Questo più avanti, ora andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. In questo venerdì 18 ottobre, il titolo di apertura del Sole 24 Ore è dedicato sempre all'analisi della manovra e non è di quelli incoraggianti. Dal 2015, mix di imposte per 10 miliardi. Per il Corriere della Sera invece Monti e il PD agitano il governo, questo è il titolo di Politica. Repubblica, Obama, Italia nella direzione giusta, così anche La Stampa, Obama vota la fiducia a Letta, l'Italia è sulla strada giusta. Mentre sempre per quel che riguarda la manovra, il Messaggero, lite sulla manovra, Monti lascia, e il Giornale, decade Monti, l'Unità, la battaglia sulla manovra. Libero, manovra da cambiare, regalo alle banche. Il Fatto Quotidiano invece titola Monti molla scelta civica, il PD spara sulla manovra. Per Avvenire il titolo di apertura è manca l'essenziale nella giornata della lotta all'indigenza, la Caritas dice abbiamo sempre più richieste di cibo e vestiti. Manovra, maggioranza divisa, così apre anche il Secolo XIX. Io voglio però aprire questa rassegna stampa con un'intervista per certi versi insolita, molto intensa, che il Fatto Quotidiano realizza a Lapo Elkan. È un'intervista, pensate, di tre pagine intere, pagina 4, pagina 5, pagina 6. Lapo Elkan ovviamente analizza così a tutto tondo l'Italia, ma parla anche della sua vita, delle sue cadute nella vita, delle sue risalite. Tra l'altro racconta, il titolo dell'intervista è Lapo Elkan, la mia vita con il male. L'intervista è di Beatrice Borromeo e Malcolm Pagani, racconta alcune cose della sua vita molto molto intime. Una soprattutto è inedita e racconta Lapo Elkan: da quando ho compiuto 13 anni ho vissuto cose dolorose che mi hanno creato difficoltà nella vita, cose capitate a me e ad altri ragazzi. Parlo di abusi sessuali. Mi è accaduto, li ho subiti. Altre persone che hanno vissuto cose simili non sono riuscite ad affrontarle. Il mio miglior amico, che era in collegio con me per quasi 10 anni, ha vissuto quello che ho vissuto io, si è ammazzato 1 anno e mezzo fa. Non ne ho mai parlato prima, anche perché voglio che questa storia serva a qualcuno e sto pensando di fare una fondazione. Voglio aiutare chi ha passato quel che ho passato io, parlare giusto, ma facendo qualcosa di utile e positivo. Perché racconta Lapo Elkan, tu puoi essere una persona solare, positiva, ma certe cose, quelle cose riescono a conficcarti il male dentro. Però io non mi considero una vittima, le vittime sono certamente altre. Come si affronta un trauma simile, chiede il Fatto Quotidiano. Beh, ho dovuto fare un lavoro enorme su me stesso, vedere cose che non avevo voglia di vedere, non nasconderle più, non nascondermi. Ho dovuto essere sincero con me stesso e con gli altri, anche perché quando si ammazza il tuo migliore amico ti metti in discussione, ti fai domande. Avrei potuto far qualcosa, avrei potuto stargli più vicino. Me lo son chiesto anche quando è morto zio Edoardo, si riferisce a Edoardo Agnelli, scomparso nel 2000. Edoardo, una persona speciale, atipica, che ha vissuto in una vita estremamente travagliata, ho sempre un gran dolore nel pensare che si sarebbe potuto fare di più, che avremmo dovuto tutti fare di più. Poi il Camp parla della situazione italiana, dell'economia, parla di Berlusconi, dice l'ho votato anch'io nel 94, non faccio il paraculo, però non mi piace chi invita a non pagare le tasse. Parla di Gianni Agnelli, che dice era il mio modello, il mio esempio quando era il mio nonno e io ero giovane, pensavo esistesse solo lui, ma oggi non ho più alcuna voglia di somigliarli, lui era lui e io sono io, lo rispetto ma sono diverso. Parla anche della sua caduta più clamorosa al 2005, lo spartiacque della tua vita, sei finito in rianimazione sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. come è stato risalire dallo sprofondo, chiedono Beatrice Borromeo e Malcolm Pagani. È stato un lento, sofferto e complesso momento di risalita, difficilissimo come tutte le scalate per raggiungere il bello. Sono servite fatica e sofferenza e ora sono a metà strada. Ho una certa pace interiore perché a quella definitiva, e chi lo nega mente, non arrivi mai. Insomma, è un'intervista molto molto forte, soprattutto in quel passaggio in cui Lapo Elkan racconta per la prima volta in vita sua ho subito abusi sessuali quando avevo 13 anni. Io vorrei, saltando veramente a un altro tema, raccontare anche un po' lo sdegno che oggi la stampa mette sia in pagina 14 sia nel Buongiorno di Massimo Gramellini sulla vicenda dei funerali di Lampedusa. Avete sentito, ci sarà una cerimonia, l'abbiamo sentita anche nel giornale radio. In realtà, insomma, i funerali, vabbè, funerali di Stato, non di Stato, al di là di questa polemica sterile, ci sarà lunedì la cerimonia di Stato, ma senza le bare, perché i morti sono già stati sepolti in varie località siciliane. Così racconta pagina 14 della stampa. Ieri ne hanno sepolti per esempio 385 le vittime del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre, senza un fiore, senza una lapide, senza una cerimonia come si deve, in attesa di un mezzo funerale di Stato, facile da promettere il primo giorno, quello dello sgomento, facilissimo da dimenticare come hanno fatto Letta, Alfano, La Bonino, due settimane dopo. Così scrive Andrea Malaguti sulla stampa. Senza più TV, senza più Barroso in passerella, senza una Boldrini, in un buio gelido come quello del mare che li ha ingoiati, eritrei e siriani, per restituirli gonfi a brandelli senza identità. La fine perfetta di una non storia fatta di non uomini, non donne, non bambini, numeri macinati a caso nello stomaco dell'universo, scarti senza neanche la differenziata. Cinque di loro, i più fortunati, li hanno tumulati nel cimitero di Sambuca in Sicilia, dove il comune ha messo a disposizione un pezzo del camposanto. È venuto il sindaco, Leo Ciaccio, una ventina di profughi, la metà dei quali sopravvissuti al disastro. E chi erano i cinque? Chi lo sa? Si sa solo che bisognava metterli sottoterra in fretta, prima che portassero malattie, appestati. Sono stati i medici a spingere perché si accelerasse. C'è stata anche una cerimonia funebre, vera, con tanto di sacerdote. Gli uomini e le donne vestiti a lutto erano farfalle nere che andavano e venivano in piroette miopi, piangendo con nazionali presunti. Qualcuno è anche svenuto ascoltando la voce stridula di stormi di gabbiani evasi dalle nuvole, ma almeno c'è stato un canto. A Piano di Gatta, ancora Agrigento, dove le bare sotterrate erano 85, è andato tutto molto più veloce, come se le autorità di ogni ordine grado avessero paura di venire inseguite dai defunti. Le casse le hanno infilate in cinque cappelle di cemento grezzo. Il guardiano del cimitero ha detto: non ne avevo mai viste tante insieme, non c'erano targhette a distinguerle, solo numeri. E questo è l'articolo molto molto intenso di Andrea Malaguti, e il Buongiorno di Massimo Gramellini sulla prima della stampa è intitolato Funerali di non è stato. Come può prendersi cura dei vivi un paese che non riesce a decidere nemmeno sui morti? Chiede Gramellini. La bara di Prib che gira l'Italia da una settimana strattonata, presa a calci appena si affaccia per strada. Intanto ci siamo dimenticati di fare i funerali alle vittime di Lampedusa, proprio così, dimenticati. Ministri, primi ministri, affettate figure istituzionali, hanno sfilato con sguardi dolenti sul molo e davanti alle salme della tragedia. C'è stato cordoglio, sdegno, lo sciame sismico di dichiarazioni scontate. Quel che non c'è stato, come sempre, è lo Stato. Qualcuno che tra un cordoglio e uno sdegno trovasse il tempo per allestire una cerimonia solenne di congedo per quei poveri cristi. Anche chiunque di noi si rechi in visita a una camera ardente, viene spontaneo a chiedere il giorno e il luogo dei funerali. Invece a Lampedusa i nostri globetrotter della lacrima non si sono neppure domandati se fossero previsti dei funerali. Colpisce la loro ostinazione nel rifiutarsi di sfogliare almeno le figure del manuale del buonsenso. Dopo aver riunito su una zattera centinaia di disgraziati, il destino li ha infine dispersi tra vari cimiteri siciliani, tumulati in silenzio dietro tombe anonime. Ma lo scrupolo di coscienza, che è il nome con cui dalle nostre parti si chiama la coda di paglia, ha suggerito allo Stato di correre ai ripari e lunedì prossimo, dunque, a cadaveri ampiamente sepolti, si terrà una commemorazione ad Agrigento, città nota per aver dato i natali al filosofo Empedocle e poi, per compensare, ad Alfano. Così il Buongiorno di Gramellini oggi sulla stampa. Beh, davvero brutta bestia l'ipocrisia. Ci fermiamo per la pubblicità e poi riprendiamo da cosa? La legge di stabilità sempre più analizzata e sempre più fonte di litigi anche politici, non da poco. 24 mattino. Eccoci, le 7:34 minuti. Allora, questa legge di stabilità ogni giorno che passa sembra sempre più fonte di litigi istituzionali. C'è un vice ministro Fassina che minaccia concretamente le dimissioni, c'è il PDL che critica, c'è Monti che si dimette perché Scelta Civica ha fatto anche un appoggio alla legge di stabilità e Monti ha detto: questa è una sfiducia nei miei confronti, lascio Scelta Civica. C'è il PD anche, gran parte del PD o parte del PD critico di fronte a questa manovra. Insomma, tornano davvero i malumori. Dal punto di vista dell'esame dei numeri, il titolo del Sole 24 Ore è davvero inquietante. Dal 2015 un mix tra aumento delle imposte, aliquote accise e taglio alle agevolazioni fiscali per garantire i 10 miliardi in tre anni, a meno che la spending review non riesca a centrare lo stesso obiettivo, porta appunto a questa cifra, 10 miliardi. Questo sarebbe il punto d'arrivo del governo e della maggioranza sulle coperture a garanzia della legge di stabilità varata a martedì. Intanto ci sono anche 4,9 milioni di case, cioè un quarto del totale, 4,9 milioni che non hanno mai pagato l'IMU, ma rischieranno di pagare la nuova TASI. Come dicono in Veneto, paga e TASI. E questo si dovrebbe dire così: paga e tasi, caro cittadino contribuente italiano. 10 miliardi da tasse e meno sgravi. Cioè, io questa vicenda del paracadute o clausola di salvaguardia, come volete chiamarla, messa nella legge di stabilità, la ripeto da due giorni, funziona così. Lo Stato ha detto: ci impegniamo a spendere meno, a fare la spending review. Come avete sentito, c'è anche un nuovo commissario, Cottarelli. Se però non riusciamo a risparmiare quello che dobbiamo risparmiare con la spending review, scatteranno delle detrazioni fiscali minori e quindi scatteranno più tasse agli italiani. Ma è come dire, io non lo so, mi impegno a risparmiare 200 euro in famiglia, mi impegno, ma se non ce la faccio rapino una banca, perché è una mia clausola di salvaguardia, è un po' così. E il dato di fatto è questo. Tra l'altro il ministro Lupi, ministro delle infrastrutture, intervistato al Sole 24 Ore da Giorgio Santilli, proprio la prima domanda è questa, parla poi di infrastrutture e cantieri, ma dice: no, non ci saranno più tasse, è solo una clausola di salvaguardia, non ci sarà alcun aumento di accise, lo eviteremo come l'abbiamo evitato finora, ci misureremo sulla spending review. Cari amici e cari ascoltatori, sulla fiducia: o faranno la spending review, ma promettono che la faranno, oppure aumenteranno le tasse di fatto con minori sgravi sull'IRPEF. Manovra, il paracadute del governo, potranno aumentare benzina e sigarette. Così titola anche pagina 8 del Corriere della Sera. Mentre il Messaggero fa un viaggio nella giungla di nomi con Marco Ferrante in prima pagina. Invim, chi è che se la ricorda? L'Invim, IMU, Trise, il valzer delle tasse, sciogli lingua. Sta di fatto che tutti sono scontenti. Il Secolo XIX mette, per esempio, casa, l'imposta di registro costerà almeno 1.000 euro, questo è il titolo a pagina 3, senza tagli selettivi, detrazioni fiscali al 18% già dal 2013, quello che appunto si è detto, e cioè se non si taglia in spending review le detrazioni fiscali scendono già dall'anno prossimo, cioè dalla dichiarazione dei redditi di quest'anno da presentare l'anno prossimo, e quindi dal 19 si scenderà al 18%. Insomma, tutti un po' scontenti. Oggi per esempio sul Corriere della Sera vedo una pagina di pubblicità firmata da tante associazioni, del no profit, da ActionAid, dall'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, al CESVI Emergency, il FAI. Compra una pagina di pubblicità a titolo: Presidente Letta, non tagli il 5 per 1000 del no profit, nella legge di stabilità 20 milioni in meno al terzo settore. E poi segue tutto il j'accuse e la richiesta di non tagliare questo. Dunque anche il no profit si lamenta anche Fassina, Stefano Fassina, vice ministro all'economia, pronto a dimettersi. Questo è il titolo su tutti i giornali, io escluso dalle scelte, pagina 10 del Corriere. pagina 5 della Stampa, Fassina pronto alle dimissioni, incassa tra l'altro l'appoggio di Epifani su questo, insomma tutti un po' scontenti, e in Veneto dicono così, paga e tasi. Mauro Meazza, buongiorno Mauro, eccoci buongiorno. Tu ti ricordi l'Invim? L'Invim, sì, purtroppo me la ricordo, purtroppo nel senso che era un po' risalente negli anni, sì, 72, e i più giovani 72. Di me non se la ricordano. Esatto. No, insomma, tutti scontenti, ho letto anche, io non veramente questa clausola di salvaguardia, per carità, l'ho messa brutalmente così, anch'io mi impegno a risparmiare in casa 200 euro, se non ce la faccio sappiate che rapinerò una banca, perché la clausola di salvaguardia, insomma. Beh, forse così è un po' eccessivo. È un po' eccessivo, sì, chiaro. Però come spieghiamo un po' sulle pagine del Sole di oggi, c'è questo meccanismo un po' a tagliola. Intanto 500 milioni è molto probabile che li perdiamo da subito di sconti. Ti spiego, se entro gennaio, dice il disegno di legge di stabilità, non si fa un primo riordino degli sconti fiscali, intanto il 19% diventa 18, ma diventa 18 retroattivamente, cioè già da questo momento. Che però potremmo, voglio dire, è un po' 18% non lo sappiamo. Però capisci? Voglio dire, Mauro, il concetto è questo, uno se la prende molte volte con la politica che non fa e dice se non si fa una revisione, ma la devono fare loro, cioè se loro non fanno una revisione il risultato negativo tocca a noi, questo è sostanzialmente il punto. No? Sì, poi non so se hai avuto modo di leggere, di vedere questo lavoro di Trovati sulla Tasi, sì. Dove appunto praticamente forse si rimpiangerà un po' l'IMU, perché la Tasi al momento non prevede detrazioni, quindi anche case che non hanno mai pagato l'IMU potrebbero pagare. E sono 4,9 milioni, no? 4,9, sì. A rischio. Secondo i nostri conti sì, quindi diciamo c'è questo senso di tagliola un pochino, per cui sappiamo che o ci rimettiamo in qualche modo con gli sconti fiscali, e già cominceremo probabilmente a rimetterci se non arriva questo primo riordino a gennaio, oppure ci saranno tutte queste promesse. Bene. Ci dicono che poi tutto questo viene fatto perché così la UE sta tranquilla, sa che noi abbiamo delle buone intenzioni, si sa che di buone intenzioni, ahimè, sono lastricate le vie che portano agli inferi, però sicuramente portano a qualche rincaruccio qua e là, 500 milioni ti dicevo, poi 3 miliardi 2015 e poi via via a crescere, ma del domani non v'è certezza, diceva qualcuno. Insomma, come si suol dire, ti piace in Veneto quella che gira paga e tasi? Sì, ma purtroppo come sai paga e tasi, paga e trisi, ma anche sì. Paga e hai meno sconti, insomma. Sì. Senti, ma ti posso dare una buona, sì, notizia, dimmela. Che abbiamo sul Sole di oggi. Maurizio Caprino segnala che lo sconto del 30% sulle multe, tra l'altro siamo quasi nel momento delle informazioni sul traffico, ecco, quello sconto lì, se paghi subito, vale anche per il divieto di sosta. Ah. Allora, perché era dubbio, anzi era così dubbio che molti comuni dicevano che è la multa più tipica, vale è la multa, è la multa più comune, insomma, che tutti prendono, soprattutto nelle grandi città, tu ne sai qualcosa, chissà quante multe ti ritrovi. Sì, diciamo che chi deve vivere in una grande città, deve parcheggiare in alcune città d'Italia, sa benissimo che la multa per divieto di sosta è una specie di fatalità, sì, che bisogna prima o poi prendere. Ecco, adesso il Ministero dice, guardate cari comuni, anche se quella multa lì non l'avevate prevista per una serie di ragioni tecniche che vi risparmio, dovete fare lo sconto se uno paga subito. Anche il 30%. Beh, insomma, almeno questa è una buona notizia. Io, Mauro, ti ringrazio, e sulla questione, ovviamente buon weekend, ci ritroveremo lunedì, sulla questione della legge di stabilità, anche Marco Tarquinio, che è il direttore di Avvenire, fa un titolo, un editoriale dal titolo Le rovinose manovre. E scrive in prima pagina: bisognerà proprio che Enrico Letta rinunci almeno per un po' ai viaggi al di là dell'Atlantico. Ogni volta che lascia Roma, quella volta, sul suo governo di servizio si abbattono fulmini e saette di chi ufficialmente lo sostiene. Perfettibile è l'appena varata legge di stabilità, che stavolta più di altre volte è presentata come migliorabile in dialogo con Camere e forze sociali, ma la confusione è grande, l'aria è di tempesta e c'è di augurarsi che tutti, soprattutto il Parlamento, siano all'altezza dei propri doveri riformatori. C'è da lavorare perché la somma dei diversi risentimenti di fazione, PD e PDL, e di alcuni deludenti atteggiamenti da solista, come quello con cui Mario Monti rischia di smentire stile e sostanza di un impegno a lungo 5 esemplare non facciano danni seri e perfino irreparabili. Ci si vergogna quasi a dirlo, tanto è scontato, ma è mille volte meglio una manovra prudente e seria delle rovinose manovre che purtroppo già si tornano a intravedere. Certo, effettivamente Letta è andato in America, come fa notare il direttore d'Avvenire, si è scoppiato un putiferio, no? Di polemiche, appunto Fassina che si vuole dimettere, vabbè, il PDL è critico, il PD o parte del PD è critico alla manovra, sono le forze del governo che ha approvato questa stessa manovra. Insomma, sta di fatto che Letta si gode la stretta di mano e la photo opportunity con Obama alla Casa Bianca. Obama loda Letta, impressionato da integrità e leadership. Questo è il titolo di pagina 6 del Corriere. Queste cose che sono appunto un po' di facciata, ma poi dietro c'è anche sicuramente il sostegno politico con il paese più potente al mondo. La Casa Bianca fa asse, Enrico incassa, titola così Repubblica, adesso sarà più facile arrivare al 2015. Certo, fa un po' sorridere che, invitata a venire in Italia, Barack Obama abbia detto: come no, vengo in Toscana, so che si mangia benissimo lì, me lo ricordo. Insomma, magari non è proprio la prima cosa che uno si aspetta di sentirsi rispondere, cioè sì sì che vengo in Toscana, si mangia benissimo. Magari ci sono anche altri motivi, si spera, per venire in Italia, ma per il presidente americano Obama questo è stato il primo così distinto. E intanto Renzi invece si rifiuta di commentare la manovra nella lunga intervista che concede al Corriere della Sera, nella quale dice anche altre cose, da qui ripartiamo dopo il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccolo, voglio una rivoluzione capillare, bisogna che tutti cambino, anche l'establishment finanziario. Un'intervista di un'intera pagina che Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera fa al sindaco di Firenze Matteo Renzi, che parla a tutto campo, non commenta la manovra dicendo il PD ha un segretario, Epifani, è giusto che la commenti lui. Però dice l'Europa dovrebbe cambiare il tabù del 3%, anacronistico del rapporto deficit-PIL, l'Europa deve cambiare non per l'Italia ma per se stessa. Poi Renzi dice: io avrei messo una detrazione del cuneo fiscale da 21-22 miliardi, per cui un signore che guadagna 2.000 euro al mese se ne sarebbe ritrovato in busta paga 100 in più. E già, ma come prende i soldi? Chiede Cazzullo ai pensionati. Io parlo delle pensioni d'oro, cioè chi prende 5 o 10 mila euro al mese. Sulla parte retributiva della sua pensione è legittimo chiedere un contributo. Di fatto costituisce un regalo dello Stato, per non parlare di alcune reversibilità e dei tagli alla spesa pubblica che vanno fatti individuando i settori su cui intervenire. Poi fa un duro attacco a D'Alema, dice: D'Alema dice che per non logorarsi io logorerò Letta, è un giudizio sbagliato. D'Alema è intelligente, ma questa sua qualità non lo mette al riparo da clamorosi errori di giudizio. Nel caso di D'Alema non è il primo, purtroppo per lui. Io ho 38 anni, posso aspettare. Il punto è che l'Italia non può aspettare. E poi dice: se i fiorentini lo vorranno, io mi ricandiderò sindaco a Firenze. Non voglio diventare un pezzo di burocrazia romana, voglio e posso fare sia il sindaco sia il segretario del PD. Voglio mantenere la freschezza che mi viene dal girare in mezzo alla gente senza lampeggiante con la mia bici. La storia del doppio incarico è ridicola. Bersani era segretario e parlamentare, Epifani è segretario parlamentare e presidente di commissione, il segretario del PDL è ministro dell'interno, il leader di SEL è presidente di regione, Martino Bri era sindaco di Lille e segretaria del Partito Socialista, e dunque anch'io posso farlo. Questo Matteo Renzi, poi ovviamente parla di tante cose, un'intervista piena di una pagina piena sul Corriere della Sera. Come vedete non ho toccato la questione, che è una questione importante sulla quale non voglio cimentare il dibattito che c'è sui giudici di Palermo che hanno chiesto che Giorgio Napolitano, capo dello Stato, testimoni nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. I giudici Napolitano testimoni, così pagina 11 del Sole 24 Ore, Nino Amadore. Ci sono dibattiti Massimo Franco fa l'editoriale di prima pagina, dice inopportuno. Marco Travaglio fa un editoriale di prima pagina del Fatto dicendo segnatevi questi nomi: Alfredo Montalto e Stefania Brambille, i presidente giudice a latere della Corte di Palermo, che ha chiesto con 6 giudici popolari che il capo dello Stato testimoni. Potrebbero avere i soliti guai che in Italia toccano in sorte a chi tocca certi fili, andranno a scavare nella loro vita privata, insomma, così via, così via. No, non voglio entrarci, ma insomma il dibattito è pieno di paginate e paginate su se è opportuno o no, se ripartirà un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Non ve la dico così e punto. C'è da dire che c'è tutta la polemica, la dico prima di concludere, la polemica su che cosa? Sulla trasmissione di Santoro di ieri, che io non ho visto, perché come ho detto prima alle 7.30, per carità, c'era X Factor, quindi non mischiamo sacro e profano, ma c'era tutta la puntata di Santoro nella quale, come titolo a Libero, tette, culi, lesbiche, Santoro il solito guardone. A pagina 6, cioè, c'era la testimonianza di Michel Bonev che dice appunto che la fidanzata di Berlusconi sarebbe in realtà omosessuale, che ha detto sono andata a letto con Berlusconi per avere contratto, ma è polemiche a non finire anche sul giornale Il Vizio di Santoro e il porno gossip sul Cavaliere. E vabbè, c'è anche questa vicenda, ma voglio chiudere con un incredibile oggi premio, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi sono sul Corriere della Sera e vincitrice è Elena Tebano, pagina 31, un'intera pagina nella quale io non volevo crederci. Il sopratitolo è Giardinaggio. Da preziosa a pop, l'orchidea cambia colore. Una pagina del Corriere della Sera per raccontare le colture intensive, la storia, le nuove specie che abbassano il prezzo di un fiore di culto. La Phalaenopsis andrew, con le varie tipologie, la Paphiopedilum, la Cattleya percivaliana, la Phragmipedium brasiliense, tutte tipologie di orchidee, con tutte le spiegazioni. Addirittura dice il Corriere, il Wall Street Journal vi ha dedicato un articolo, quindi è pure copiato dal Wall Street Journal, cioè il Corriere che va a rimorchio e dice tra le varietà più esclusive, la Cattleya, citata anche da Proust. Nella ricerca del tempo perduto, Odette teneva in mano un mazzo di Cattleya e lui vide che sotto la sciarpa di pizzo aveva nei capelli dei fiori di quelle stesse orchidee appuntati a un aigrette di cigno. Ma chi se ne frega l'orchidea? Una pagina sul Corriere della Sera, amici del Corriere! Ma allora non lo capite? La carta costa, attenzione! E noi rientriamo dopo il giornale radio. 24 mattino. Eccoci, siamo qui alle 8 e 19 minuti in punto e vogliamo iniziare a approfondire i nostri temi. Parleremo dopo le 8.30 soprattutto di ludopatia, di contrasto al gioco d'azzardo legalizzato, ma prima, tra l'altro è legato anche a questo tema, prima voglio salutare con noi il presidente della Regione Lombardia, nonché segretario della Lega Nord, Roberto Maroni. Buongiorno, lo recuperiamo tra un istante, è caduta la linea proprio mentre lo stavamo mettendo in onda. Roberto Maroni, perché c'è una misura fiscale della Regione Lombardia che suona più o meno così: ai commercianti che tolgono le macchinette IRAP, le macchinette slot machine, l'IRAP viene scontata, mentre viene maggiorata per coloro che tengono appunto le macchinette. Vediamo se recuperiamo la linea con il segretario della Lega, Roberto Maroni. Mi dicono che adesso forse suona al telefono, sono gli imprevisti della diretta, era in diretta fino a poco fa, tra l'altro si trova in Francia. Maroni, buongiorno, ci sente? Sì, buongiorno. Eccoci qua, è caduta la linea proprio poco prima di entrare in diretta. Senta, lei tra l'altro si trova a Grenoble con 46 presidenti di altre regioni europee per siglare oggi una strategia macro regionale, immagino più una strategia economica che politica. No, al contrario, politica. È una strategia politica. 46 regioni e 7 stati, tra cui l'Italia ovviamente, per firmare un accordo assolutamente innovativo che mette le regioni al centro di alcune azioni in materia di sviluppo economico, di competitività, energia, acqua, mezzi di comunicazione, trasporti, mobilità, tutte quelle dell'arco alpino. C'è una specificità di quest'area, in questi settori, certamente sì, per la prima volta le regioni diventano protagoniste tra di loro e nei rapporti con l'Unione Europea. È quello che io lo considero un po' l'inizio della nuova Europa, l'Europa delle regioni, un'Europa basata sulla sul principio di sussidiarietà e che dà più spazio ai territori. Quindi non un'Europa centralista, ma lei vuole un'Europa più federalista, diciamo così, è una nuova forma di ricerca in qualche modo del federalismo europeo? Un'Europa più efficiente, che dà risposte concrete alle specificità dei territori. Le regioni che insistono sull'arco alpino hanno delle specificità che sono ovviamente diverse rispetto a quelle del nord Europa o del sud Europa. Ed è la prima volta che le istituzioni europee e gli stati membri vanno in questa direzione, una cosa molto positiva, un processo lungo che è iniziato anni fa e che non si è ancora concluso, ci sono tante resistenze da vincere, ma oggi si fa un passo in avanti decisivo in questa direzione. Senta Maroni, noi come detto parleremo dopo le 8.30 di questa dipendenza del gioco d'azzardo, l'iniziativa fiscale fatta dalla regione che lei guida, cioè in pratica ai commercianti che tengono le macchinette l'IRAP viene maggiorata, se invece un commerciante, un barista toglie le macchinette l'IRAP viene scontata. Il senso di questo qual è? Cioè non c'è il rischio di dare un messaggio gioco d'azzardo legalizzato uguale, come dire, un qualcosa di negativo? No, non è questo, non abbiamo nulla contro il gioco legalizzato naturalmente, dobbiamo far fronte a una situazione patologica molto grave che colpisce la Lombardia in particolare. Lei tenga conto che in Italia ci sono circa 800.000 giocatori patologici cosiddetti, che arrivano a quasi 2 milioni con i giocatori a rischio. Ebbene, in Lombardia, in particolare in provincia di Pavia, questo fenomeno è diventato molto preoccupante. Qui in provincia di Pavia si registra la più alta spesa pro capite per gioco d'azzardo in Italia, 2.125 euro, quasi l'8% del PIL della provincia di Pavia, e intere famiglie che sono rovinate. Noi dobbiamo far fronte a questo fenomeno per prevenirlo e per evitare poi le spese ulteriori a cui la regione andrebbe incontro se non si facesse quello che abbiamo fatto in termini di assistenza sociale, sanitaria. È un incentivo, diciamo, a chi decide di non mettere le macchinette. Sì. Una penalizzazione per chi decide di mettere. È tutto nell'ambito delle nostre competenze ed è una cosa giusta, tant'è vero che è stata votata all'unanimità dal Consiglio regionale, tutte le opposizioni, compreso i grillini, hanno votato a favore, è una innovazione importante che spero sia seguita dalle altre regioni e dal governo. Senta, parliamo invece più a livello nazionale della cosiddetta legge di stabilità, forse saranno arrivate anche in Francia, non avrà visto magari i giornali italiani, ma sono sempre più le voci di critica anche dei partiti, paradossalmente, che sono al governo. Lei è stato critico fin da subito, che cosa soprattutto da presidente di una regione del nord, della Lombardia, non le piace di questa legge di stabilità? Ma premesso che il testo non l'abbiamo ancora visto, quindi i giudizi sono ancora sospesi nel dettaglio, ma ci sono tante cose, è mancato il coraggio di fare un taglio vero sulla spesa improduttiva, si poteva fare, certamente sì, come? Attuando i costi standard, è molto semplice, se venisse attuato il criterio, se fosse stato attuato il criterio dei costi standard, in particolare in sanità, si sarebbero risparmiati almeno 30 miliardi di euro applicando in tutte le regioni i criteri che ci sono in Lombardia. 30 miliardi di euro, cioè un terzo degli interessi sul debito pubblico. Secondo, la cassa integrazione in deroga, che è molto importante in questo momento di crisi per le piccole imprese, soprattutto del nord, non è stata rifinanziata. Terzo, sono stati tagliati di 350 milioni i fondi per i comuni virtuosi, i criteri di virtuosità, vuol dire penalizzare ancora una volta i comuni che lavorano bene, i bravi sindaci, sì, favorendo gli altri. In Lombardia ci sono i sindaci, i comuni della Lombardia hanno risparmiato, hanno avuto a fine anno degli avanzi di gestione per 8 miliardi e mezzo di euro che non possono utilizzare. 8 miliardi e mezzo investiti nella crescita risolverebbero i problemi non solo della Lombardia e dell'Italia. Però ecco, lei spera che queste cose vengano cambiate nell'iter parlamentare, perché c'è sempre pur sempre quello? E questa sì è l'ultima speranza, direi. Vede, a differenza che in Germania, in Italia il governo di larghe intese indebolisce l'azione di governo, in Germania la rafforza, da noi costringe i partiti che fanno parte di questa strana coalizione al compromesso continuo. È una finanziaria, una legge di stabilità né carne né pesce, tant'è vero che incredibilmente ha avuto le critiche sia di Confindustria che della CGIL, non era mai successo questo, dimostrazione che è una legge di stabilità che non affronta i problemi, non trova soluzioni vere, ma è semplicemente quasi un atto dovuto. E tra l'altro io ricordo alle 9 da Giovanni Minoli ci sarà Susanna Camusso, leader CGIL, visto che l'ha citata. Senta Maroni, in questi giorni, dopo le vicende tragiche dell'immigrazione, tutte queste vicende l'hanno anche in qualche modo riguardata, visto che lei da ministro dell'interno propose e fece mettere il reato di clandestinità. Non andrebbe tolto a questo punto, ha seguito anche lei queste polemiche? Non capisco perché, francamente, come se fosse la causa di quello che sta avvenendo. La causa dei morti in mare, che è una tragedia gravissima, deriva semplicemente dal fatto che non c'è nessuno che controlla il mare aperto, non c'è nessuno che fa i pattugliamenti davanti alle coste da dove partono questi barconi, cosa che io facevo con gli accordi con i paesi di partenza, la Tunisia, la Libia, l'Egitto, e questo bisogna fare, assolutamente. Adesso è ripartita, ha visto questo Mare Nostrum? Sì, non è proprio così, sono due cose diverse. Io non credo che l'Europa abbia capacità di intervento. I fondi di Frontex, che è l'agenzia europea che dovrebbe pattugliare il Mediterraneo, sono già finiti nel 2013. Ecco, non illudiamoci che l'Europa ci possa dare una mano, dobbiamo fare noi, ma fare noi non è solo con iniziative un po' così spettacolari come Mare Nostrum, bisogna andare davvero davanti alle coste dei paesi di partenza, ma previo accordo con loro, altrimenti non puoi entrare nelle loro acque territoriali. Però il certo, problema non si risolve. Il reato di clandestinità, perché le dico tolto? Perché la stessa procura di Agrigento dice in realtà sono fascicoli che apriamo, impegniamo uomini, persone, magistrati, ma poi li chiudiamo, non otteniamo nulla di concreto. È un deterrente che colpisce soprattutto quelli che vengono in Italia non perché siano dei rifugiati, perché quello c'è l'esenzione, ovviamente non c'è reato, ma è un deterrente, c'è in tanti paesi europei, non si capisce, è solo una cosa ideologica. Abolire il reato di immigrazione clandestina aumenta e favorisce l'immigrazione clandestina e quindi aumenta il rischio di morte. Anche per questo motivo va assolutamente tenuto. Io le chiedo a questo proposito, lei cosa ne pensa del Ministero per l'Integrazione e quindi anche del Ministro Kyenge? Ma l'ho sentita tante chiacchiere, mi pare, tante chiacchiere e sostanza, concretezza zero. È partita dicendo entro pochi mesi faremo la grande rivoluzione, lo Ius Soli. Bene, per fortuna, io dico, siamo ancora qui. E poi ha detto riformiamo la legge di qui, riformiamo la legge di là, tante chiacchiere e nessuna sostanza. Una spesa inutile per il contribuente italiano, mi pare. Insomma, il giudizio è abbastanza chiaro. Senta, parliamo un attimo di Lega, perché lei ha detto lascerò la segreteria del partito entro Natale. Chi vedrebbe bene, mi dica però veramente il suo nome, insomma, chi vedrebbe bene a succederne? Ma guardi, noi contrariamente a quanto molti pensano, siamo un partito davvero democratico che elegge i suoi leader attraverso i congressi veri. Questa volta ho deciso di far partecipare al voto non solo i delegati al congresso, circa 800 militanti, ma tutti i militanti che hanno un anno di anzianità, e cioè 20.000 persone. Faremo le elezioni così per la prima volta, l'elezione diretta del segretario federale della Lega. Ci sono tanti giovani capaci e competenti, con la formazione giusta, con la determinazione giusta. Non voglio fare nomi per non dare indicazioni, non scontentare nessuno. Vabbè, ma c'è una data di questo? Cioè entro Natale c'è una data precisa già? 15 dicembre. Il 15 dicembre è fissato il congresso a Torino, al Lingotto di Torino. Le ultime due domande sono queste. Ha visto che un comune lombardo, Sedriano, è stato sciolto per mafia? Io ricordo la polemica che lei fece con Roberto Saviano. Insomma, si può dire davvero che allora la mafia c'è anche in Lombardia a questo punto? Guardi, la polemica fatta non riguardava la Lombardia, riguardava la Lega, perché Saviano disse che la Lega interloquisce con l'Andrangheta, con la Camorra, con la mafia. Io sono stato ministro dell'Interno che ha combattuto più di chiunque altro la criminalità organizzata e i dati sono lì a dimostrarlo. Ho sciolto comuni in Liguria che erano stati governati dal centrodestra, quindi senza guardare in faccia nessuno. Non accetto su questo terreno lezioni da nessuno, men che meno da Saviano. E infine, visto che lei è un tifoso milanista doc, ma lei a Balotelli che cosa farebbe per raddrizzargli un po' la testa? È difficile dirlo, Balotelli è un genio calcisticamente parlando, dovrebbe avere un po' più di umiltà e capire che deve fare il gioco di squadra, se no non è un valore aggiunto per il Milan, ma diventa un qualcosa di negativo. Anche per la nazionale, però, perché sai che c'è chi dice non dovrebbe essere neanche convocato comportandosi così in nazionale. Sì, io sono d'accordo, perché ci sono dei comportamenti che vanno tenuti per far parte di una squadra, e se uno pensa che, viste le qualità che ha, può non applicare queste regole, può fare il ganassa, come si dice a Milano, beh, bisogna fargli capire che non è così. Quindi anche in nazionale potrebbe anche dice ti comporti una, così. Una lezioncina di umiltà fa bene a tutti ogni tanto. Va bene, la ringrazio intanto, buona giornata, grazie per essere stato con noi. Grazie, Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia e segretario della Lega Nord. Come detto, avete sentito, la Regione Lombardia c'è questa iniziativa che ora approfondiremo con altri ospiti dopo la pubblicità, anche col vostro parere, 800 24 00 24. Non metti le macchinette, caro barista, commerciante in Lombardia, non metti quelle macchinette, slot machine, eccetera. Ti togliamo un po' di sgravi, ti sgraviamo l'IRAP, te la facciamo pagare. Metti quelle macchinette lì, paghi di più l'IRAP. È un disincentivo a questo sistema in nome della cosiddetta lotta alla ludopatia. Che ne pensate tra poco? 24 mattino. Eccoci qua alle 8:38 minuti. Allora, dall'intervista con Roberto Maroni di poco fa, vogliamo sviluppare proprio il tema che è questa esenzione fiscale che la Regione Lombardia ha deciso, cioè per tutti i commercianti che toglieranno le macchinette delle cosiddette, non so, le slot machine, no? Sapete, queste cose del gioco d'azzardo legalizzato dai loro negozi, ci sarà uno sgravio dell'IRAP. Se invece vuoi mantenere questa macchinetta, l'IRAP l'aumentiamo. Un disincentivo a questo tipo di macchinette. È una legge, come ci ha detto Maroni, passata in maniera bipartisan, approvata da tutti. Voglio salutare Lino Stoppani, che è presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Buongiorno, presidente Stoppani. Buongiorno a lei e grazie per l'ospitalità. Come voglio salutare Riccardo Bonacina, direttore editoriale di Vita, il giornale No Profit, che su questo fa una campagna da tempo e ritorna con noi. Buongiorno Riccardo. Buongiorno Milano, buongiorno a tutti. Allora Stoppani, che ne pensa di questa iniziativa della Regione Lombardia? Ma ascolti, mi consente una premessa innanzitutto, sì, che riguarda innanzitutto la posizione della federazione, che considera le ludopatie una patologia che si sta trasformando in un fenomeno sociale vero a causa della crisi, a causa della diffusione degli strumenti, perché ci sono certamente molti interessi sul business, e la posizione di critica al provvedimento che poi esporrò non va letta come il solito vittimismo o la insensibilità di una parte di fronte ad un problema. Sul tema c'è anche molta ipocrisia, perché lo stesso Stato da un lato fa finta di affrontare il problema con questi provvedimenti, dall'altro il primo biscazziere incassa molte tasse, lo sappiamo. Quanto premessa è che le macchinette, a differenza di tutti i giochi leciti, ristornano a favore del giocatore il 75% del giocato, mentre invece altri giochi hanno un montepremi ridottissimo, e nel 25% che rimane c'è il compenso del pubblico esercizio, dei produttori e degli installatori, dei monopoli. Allora, ciò premesso, la posizione di critica è perché consideriamo questo provvedimento parziale, perché colpisce, tanto per cambiare, solo un anello della catena, e noi di principio siamo contrari ai divieti perché alimentano anche quelle che sono le devianze. tornando allo specifico sulla riduzione alla grave di IVA, l'IRAP è evidentemente un provvedimento parziale, a parte che è una così agevolazione, una riduzione inconsistente per i pubblici esercizi, normalmente sì. La produzione familiare. Lei mi insegna che l'IRAP colpisce soprattutto quello che è il costo del lavoro, perché è una variazione certo. In aumento del reddito imponibile. Quindi dice è una cosa non conveniente rinunciare a questo, avvalersi esatto, di questa riduzione dell'IRAP. Esatto, perché l'IRAP evidentemente favorisce quelle aziende che hanno grande occupazione, molto personale, evidentemente la maggiorazione aumento del costo personale per queste aziende è significativo, per un pubblico esercizio, conduzione familiare che non ha dipendenti è insignificante, se non è limitato al reddito imponibile. Secondo lei quanti commercianti aderiranno? Perché guardi che il Corriere della Sera per esempio ha fatto un giro, io lo vedo nel dorso, quello regionale, e ci sono molti che dicono in maniera molto laica, vabbè, mi farò due calcoli. Se mi converrà di più tenere le macchinette e per questo pagare più IRAP, lo farò. Se mi converrà dar dentro le macchinette e togliere e per questo sgravare l'IRAP, lo farò. Proprio in maniera molto... i conti della serva, ecco, diciamo la verità. Beh, adesso non so, perché a mio avviso avrà effetti assolutamente modesti. Ma volevo completare quella che era la mia critica al provvedimento, oltre all'aspetto che ha riguardato l'IRAP, anche perché... chi ha fatto questo provvedimento non conosce evidentemente quello che è il grado di mobilità dei giovani sviluppati, i quali c'è gente che fa migliaia di chilometri per andare in un casinò, pensi lei se bastano 500 euro per combattere eventualmente una malattia. Sì. C'è il rischio delle devianze con lo sviluppo di un gioco irregolare, eccetera. E invece noi proponiamo essenzialmente quattro cose, se mi consente. Sì. Aspetti, le quattro cose di proposte, facciamo sentire prima Bonaccina che ne pensa. Bonaccina, lei è favorevole, tu sei favorevole, diamoci del tu, visto che ci conosciamo, sei favorevole a questa iniziativa della Regione Lombardia o è un attacco a un settore che è appunto legalizzato e sul quale lo Stato guadagna fior fior di quattrini? Ma diciamo che la legge lombarda, che tra l'altro voglio dire la quinta regione che legifera in questo senso, quindi oramai diciamo ci sono 25 milioni di italiani che hanno una regolazione del fenomeno, perché ha cominciato a Liguria, poi Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, in Abruzzo si è cominciato l'iter legislativo. Evidentemente le regioni arrivano prima dello Stato perché vedono sul territorio che diciamo il problema delle slot machine, che ricordo sono 420 mila in Italia, produce diciamo immiserimento economico, sì. Sociale, costi affettivi. Però Bonaccina, così non si rischia, anche dal punto di vista dei commercianti, produrre da un'altra parte un altro immiserimento economico? Cioè molti di questi commercianti dicono ma io senza queste slot machine sono in difficoltà, se le devo togliere, molto brutalmente. Certo, diciamo tutto. Io credo, come avete detto, come ha sottolineato anche l'ospite che con noi questa mattina, che è una misura simbolica, no? Questa dell'IRAP, non so quanti aderiranno, non so come diciamo calcoleranno, però simbolicamente è anche giusto che diciamo il legislatore valorizzi certi tipi di commerci e penalizzi un po' altri, perché diciamo viviamo in una società, in una comunità, e compito del legislatore è anche indirizzare i consumi. Quindi fare una scelta anche etica, diciamo. Stoppani, che ne pensa di questo, di questa proposta? Cioè dire anche che cosa è, come dire, buono e cosa è negativo. No, certamente ha un significato ed un messaggio esplicito, insomma, pone il problema su un fenomeno sociale. Sul quale si richiede poi partecipazione da tutta la filiera, tutti i soggetti, per cui il messaggio positivo dell'iniziativa va vista. In aggiunta a questo, se mi permette, si potrebbero anche fare altre cose, per esempio allungare i tempi delle singole giocate per aumentare il fattore trattenimento rispetto a quello aleatorio, cioè rallentare la possibilità delle perdite. Oppure ancora condizionare l'accesso al gioco a chi dimostri, con l'introduzione per esempio della tessera sanitaria che è diffusa in Lombardia, la maggiore età. Oppure con l'utilizzo di programmi che ci sono, che consentono di capire alla macchina che il giocatore che ha di fronte dà segni di ludopatia. Infatti le macchine sarebbero attivabili solo con l'introduzione della tessera, la quale capisce che il soggetto con cui Ho capito, cosa facciamo Stoppani? Mettiamo sulla tessera sanitaria come un marchio ludopatico e quindi non lo so, e quindi la tessera sanitaria... No, scusi, tanto che non è una battuta, se il fenomeno è quello di combattere certe malattie, la tessera sanitaria vale anche per questo, nel momento che io introduco, ti do dei limiti di tempo, nel momento che hai giocato... Sì, ma uno magari è ludopatico ma non lo sa, non è in cura di nessuno, non è che gira con... È la prevenzione, mi pare che nel testo del decreto regionale ci sia anche da sostenere quello che non solo il recupero dei ludopati ma anche le funzioni di prevenzione e assistenza che sono demandate alle ASL. Comunque interessante, facciamo così, ripartiamo tra un attimo dopo dopo il traffico con le sue anche proposte che fa alla Regione Lombardia, o comunque dopo questa decisione della Regione Lombardia, tra pochissimo. Eccoci qua, Stoppani, le quattro proposte, se sono sintetiche, ce le dica. No, tre le ho già anticipate, sì. Vuol dire quella di allungare i tempi delle giocate, condizionare l'accesso ai giochi a chi dimostri la maggiorità o con l'utilizzo del codice fiscale della tessera sanitaria, l'installazione sulle macchinette di un programma che consentono di rallentare o interrompere il gioco quando evidentemente la macchina interpreta che il giocatore che ha di fronte è un ludopatico e ci sono dei programmi che sanno perfettamente interpretare quello che è l'atteggiamento del giocatore in base alla frequenza, al modo compulsivo con cui uno schiaccia anche valutare l'intervento su tutte le forme del gioco d'azzardo legalizzato e non solo queste che sono, come ha già detto anche Bonacina, un fenomeno marginale rispetto invece al grave. Insomma, Bonacina, qua c'è da dire che i commercianti, in questo caso Stoppani, presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, si difendono da quello che sembra un po' un accanimento, si direbbe ad persona, ma se fosse una legge, un accanimento a dire forse maggiore educazione, questo sì, educhiamo di più al gioco, ma una censura di questo tipo è una censura forse sbagliata. Certo, intanto lasciami dire che apprezzo molto la posizione di Stoppani, che mi sembra una posizione responsabile, no? Per esempio quando ha introdotto l'uso della tessera sanitaria, che tra l'altro è un provvedimento che è già contenuto nella delega fiscale, così come è uscita dalla Camera dei Deputati e che adesso comincerà il suo cammino al Senato. Quindi lo ringrazio, nel senso che è testimonia che gli esercenti sono coscienti di un problema. Sono sensibili su questo tema. Un problema esatto. Cioè, non è che viene qui a dirci è terrorismo, è una vergogna, esatto, ma dire quindi, affrontiamo una situazione. Ci tenevo a esprimere questo giudizio. Secondo me non c'è nessuna forma di accanimento, come dicevo prima. Se tu pensi che il 12% della quota che ogni italiano dedica ai consumi va nelle macchinette, tu capisci che giustamente una regione cerca di indirizzare altrimenti i consumi dei suoi cittadini. Certo, ma io poi mi chiedo, ma tutte queste persone che dicono giustamente c'è la crisi, ma dove li generano questi soldi che buttano in queste cose qua? Questo è veramente... Dai risparmi di famiglia, dai risparmi del lavoro quando sono in pensione. Cioè noi stiamo raccogliendo testimonianze, adesso uscirà un libro da Feltrinelli, veramente devastanti, perché è l'immiserimento di una società che è già dentro una crisi spaventosa. No? Quando uscirà questo libro segnalamelo, perché ne parleremo certamente, il tema certo. Come sai mi è molto caro. Sentiamo due ascoltatori, Leonardo da Pisa. Leonardo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Avevo bisogno solo di precisare alcune cose, perché mi sembra che come al solito si parla di qualcosa che non si conosce il problema, perché il signor Stoppani ha fatto delle valutazioni che permettono di entrare realmente in quello che è il problema della ludopatia o del gioco. Per quanto riguarda invece il Comune di Milano, ha solo fatto un qualcosa che fa un po' di polverone intorno al problema. La Regione Lombardia, non è il Comune, la Regione Lombardia. La Regione. Ah, scusa, ho detto il Comune, ho sbagliato. È la Regione Lombardia, come ha fatto Genova, come hanno fatto altre zone, voglio dire. Perché quello che non tengono conto è che il gioco in Italia c'è sempre stato e continuerà a esserci. quello che è stato tolto è il gioco d'azzardo, cioè quello che realmente nessuno controllava. E infatti dove si chiama gioco d'azzardo legalizzato questo bravo, caso. Esatto, perfetto, ma non è che è sparito il gioco illegale, nel momento in cui viene tolto il gioco lecito, i giocatori continueranno ad esserci. Sì, però scusi, lei non crede, ma è una domanda alla quale io non ho una risposta, non crede che se io adesso io ho a disposizione, non so, se lei va in una grande città, a Milano, ogni 50 metri c'è appunto una sala gioco, una slot machine, cioè averla a disposizione così è un po' più facile che giocarci, che andare a cercare il gioco d'azzardo, veramente quello sotterraneo nelle bische, no, averne di più a disposizione è più facile caderci, questo è il tema. Io vorrei sentire anche Mario da Como, ci ha chiamato, tra l'altro ci ha chiamato come ascoltatore, però mi segnalano dalla redazione che ha un'esperienza di gioco molto concreta. Mario, buongiorno. Buongiorno. È così, mi faccia capire. No, niente, vabbè, sapete meglio voi come funzionano queste cose. A me fa solo sorridere, un po' come anche per le sigarette, che lo Stato si adoperi a trovare delle soluzioni. Ma no, mi scusi, perché io l'ho presentata così, mi hanno detto dalla redazione che lei gioca abitualmente. Cioè sì, assolutamente. E quindi volevo spiegare che il problema non è per i poveri commercianti e per tutta questa povera gente, il problema è per i poveri noi che siamo, scusi la parola, un po' dei coglioni, però cioè, sono a noi che ci devono dare le agevolazioni. Ma mi scusi, noi chi? Cioè lei si definisce… I ludopatici. Lei si definisce un ludopatico, cioè lei è conscio e dice io sono malato di questa cosa. Purtroppo sì, anche se è già un paio d'anni che ne sto lontano, però lo sono stato in passato e devo dire che è vergognoso che si dica che non so, che il commerciante gli deducono l'IRAP, poverino, perché… Mi scusi, lei cosa chiederebbe? Cosa vorrebbe? Non so, un contrasto totale? O le eliminate o le rende… Allora, lei deve tener conto che nel giro di mezz'ora si riescono a buttare dentro anche 600 euro senza che la macchina paghi mai. Quindi è tutto studiato apposta. Il compulsivo, purtroppo, gioca e non si rende conto. Dopo un'ora, quando ha messo dentro 500-600 euro, rimane lì come un pirla e dice «Porca miseria, che cazzo ho fatto?». Invece il barista che sta dietro, che continua a boffonchiare, ma sta zitto e caccia soldi perché lui guadagna. Però poi dopo ne fa una questione morale, dopo quando lo senti parlare con i clienti che non giocano, dice «Ah, sti coglioni». Purtroppo lui ha deciso di fare i soldi sui coglioni, come lo Stato, e quindi… Cioè, incominciamo a pensare un po' a togliere le cose negative dal mondo, non so, cosa vuol dire, ma adesso mettiamo la macchinetta che riconosce se uno è pirla, ma allora mettiamola anche in Parlamento, una macchinetta che riconosce se entrami pirla. Cioè, scusate, io sono veramente avvelenato su questa cosa, è colpa mia, ma siccome l'avete detto voi, ce ne sono 800.000, porca troia, ma… Beh, adesso Mario, però… Scusi, si contenga un po'. No, ha ragione, mi scusi. Però sono 800.000, vuol dire che ci sono 800.000 persone che hanno problemi seri. No, certo, ma senta, siccome purtroppo devo chiudere, però guardi, questa sua testimonianza è molto… Lei quanto ha perso, diciamo, nella sua vita? Ha fatto mai… Ma diverse migliaia, quindi… Diverse migliaia di euro. E insomma, vedete come a volte poi, con anche una testimonianza di un ascoltatore che ci ha chiamato all'800 24 00 24, diventa, come dire, un protagonista anche di una vicenda. Mario, le prometto che la richiameremo quando torneremo sul tema. Ringrazio Lino Stoppani, ringrazio Riccardo Bonacina, alla prossima. E noi ci fermiamo qui per questa settimana con Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. A lunedì 6:30 24 mattino.